English 24. Buonasera da Marta Cagnola. E da Giulia Crivelli. Settimana scorsa c'è stato il Torino Film Festival. L'abbiamo seguito con Radio 24 e proprio Radio 24 era partner del premio Cult, il cinema della realtà, il premio al miglior documentario. Ha vinto il regista Julian Temple con un documentario dedicato alla band dei Dr. Feelgood. Il documentario si chiamava Oil City Confidential, ma in giuria del premio Cult c'era un altro inglese, Richard Dale, documentarista, autore e produttore, ad esempio, di film sulle Twin Towers e sulla storia di Lady Diana. Ma non solo, Richard Dale parla un inglese particolarmente gustoso, ora lo ascoltiamo insieme. Intanto gli abbiamo chiesto quali sono le caratteristiche del documentario perfetto. I think the perfect documentary for film and for television, I think they're slightly different. For television, which is where I think I'm, my kind of experience and perhaps my expertise is you have to first and foremost be willing to communicate to a big audience. So however specialist you think the subject of your film is, you have to make it accessible. You have to want people who know nothing about your work or this subject need to watch it and have to keep watching it. And that's the single most important thing. They need to think, I cannot turn this off. It's too interesting or intriguing to miss. A good documentary, you should not be the same person at the end of it as you were at the beginning. Eccolo qua questo inglese, proprio inglese, di Richard Dale. Quali sono allora le caratteristiche del documentario perfetto? Intanto non esiste solo un tipo di documentario. Sì, ci sono naturalmente quelli per la television e che lui dice quelli qui con una certa modestia, dice dove io ho la mia experience and perhaps my expertise, perché naturalmente l'experience è l'esperienza che può essere, insomma uno può provare a fare le cose e non imparare mai a farle bene, invece l'expertise è quando si diventa esperti. Quindi lui dice, c'è la mia esperienza in quelli per la televisione e forse anche il mio essere esperto a farli. Mi piace questa modestia molto inglese. Qual è la prima caratteristica e direi anche la più importante? Quindi in inglese first and foremost. I documentari devono essere willing, cioè devono avere il desiderio, devono partire dal presupposto, potremmo dire in italiano, to communicate to a big audience. Comunicare a una grande audience come quella televisiva in generale. Un'audience televisiva che solitamente non sa nulla dell'argomento di cui si sta parlando. Sì, forse questo è appunto anche un po' un pregiudizio sui documentari, ma Richard Dale ce lo conferma, cioè sono specialisti, quindi however specialist the subject is, non importa quanto specialistico sia il soggetto, you have to make it accessible, cioè puoi partire da una cosa molto particolare, però il tuo compito di regista è to make it accessible, cioè renderlo accessibile a tutti, quindi a quella big audience della TV. Non solo accessibile, ma ti deve proprio incatenare. Sì, perché anche le persone che non sapevano niente di quell'argomento, subject, no? Quindi non soggetto ma argomento, un po' un false friend, quindi people who know nothing about your work, quindi neanche di te o del soggetto, they have to keep watching, devono sentire un'urgenza di continuare a guardare il tuo lavoro. Anzi, I cannot turn this off addirittura, non posso più spegnere il televisore, to così. To turn off, naturalmente accendere e spegnere, anche esaltare, invece svilire, in questo caso però è proprio il gesto di schiacciare il pulsante o il telecomando. Perché? Perché questo documentario è too interesting, troppo interessante, too intriguing, troppo intrigante, to miss. Naturalmente i primi due too hanno due O e questo terzo ne ha una sola perché è l'infinito di miss, mancare, perdere. Mi piace molto l'affermazione che fa alla fine, il documentario ti deve in un certo senso cambiare il modo di vedere le cose. È una bella ambizione, quindi dice che cos'è un good documentary? Beh, è quel documentary che you should not be the same person at the end of it as you were at the beginning. Quindi all'inizio eri una cosa, alla fine sei una persona diversa. Abbiamo detto che Richard Dale era nella giuria del premio Cult del documentario. Quali temi, gli abbiamo chiesto, ha apprezzato tra i documentari nella selezione, ma soprattutto ha pensato su questo argomento, volevo proprio girare qualcosa anch'io? There was no subject in this that I thought at the beginning, oh, I'd like to know more about that. And that I think is really good. If you only make films for people who already want to know about something, then why make films? That audience probably knows everything, so why are they going to watch? They're just, you know, for that you write a book and people buy the book. The films that are most interesting to me in this and in my own career are films that I wouldn't have thought to make. I thought, why am I interested in that? And then I look at the subject and find that I am interested in that. And if I can find something that interests me in a subject which I had no previous interest in, then that is what I can do for my audience. Because I want an audience to watch something and get something from it which they hadn't expected. Io un po' ingenuamente gli ho chiesto, ma c'era tra questi temi qualcosa che ti intrigava fin dall'inizio? E hai detto, ma cavolo, volevo girare qualcosa anch'io su questo. E lui mi ha assolutamente spiazzato. Mi ha spiazzato perché ha detto, no. E però in realtà è come se avesse apprezzato la tua domanda, perché dice il bello è stato proprio questo, che perché la cosa interessante è che i subject che lo interessano, gli argomenti, sono quelli sui quali non sapeva di avere un interesse. Quindi se tu fai un film, invece, if you make a film for people who already want to know, quindi se lui avesse trovato in questo documentario di Torino una cosa che lui già conosceva, non si sarebbe divertito per niente. Why make the film? So già, conosco già. Quindi l'idea è invece quella, appunto, di presentare sempre degli subjects che non conosci, e a quel punto magari poi il regista ci pensa su e magari l'anno prossimo arriva col documentario. È singolare questa sua teoria secondo cui questo può funzionare per un libro. Sì, dice, if the audience probably knows already about a subject, then you write a book. And for that, you write a book and then the people buy the book. E così è a posto. Cioè, l'idea è, chi già conosce bene un argomento si diverte di più a leggere un libro che non a vedere un documentario. Per lui i film più interessanti sono quelli ai quali non pensava all'inizio. Dice, appunto, in my own career, perché poi vuole spiegare questa strana risposta, dice, the films I really like, it's the films I wouldn't have thought to make. Cioè, sono quelli che non avrei pensato di fare, che invece poi alla fine ha fatto. Quindi c'è tutto un gioco di stimoli e poi di stimoli a posteriori che ti portano a fare una cosa che non avresti pensato di fare. Non aveva un interesse, diciamo, precedente. Quindi no previous interest. Quindi a un certo punto ti accorgi che invece una cosa ti interessa, e lo stesso vale per l'audience, che devono avere questa sorpresa. Quindi they have to get something from it, from the documentary, which they hadn't expected. Quindi a volte, no, è vero, capita, magari si fa zapping, si guarda un documentario, pensiamo di un argomento che non ci interessa, ci cattura e alla fine diciamo, beh, meno male l'abbiamo visto. Insomma, alla fine ricaviamo qualcosa che non ci eravamo aspettati. Abbiamo detto che Richard Dale è inglese, lavora, manco a dirlo, per la BBC. E non potevamo non chiedergli com'è fare il documentarista televisivo per la BBC, visto che noi abbiamo questo mito secondo cui, insomma, la BBC è famosissima per la sua qualità. And it's getting harder and harder even in England to make films that have television programs which have the integrity of documentaries. It's very, very tough. It is getting harder and harder. But that for me is why the people making the films and the discipline of the filmmakers needs to be better and better. Because there is no reason why these films can't also be really entertaining, but also good in the way that I think we would agree a documentary should be. But what is very bad is when people make documentaries and they don't bother to make them interesting, or they don't bother to make them visually compelling, because that will kill it, because they will never get an audience. And then people will say, well, no one watches a documentary, so we don't need to make them. So you need to make better and better and better ones, and you need more and more skill to make them. Da un certo punto suonava il telefono, passava una persona, sono cose che succedono durante le interviste, soprattutto radiofoniche. Le risposte di Richard Dale spiazzano, sono challenging, sono una sfida, perché gli ho chiesto, allora, noi abbiamo il mito della BBC, però dice, non è così più nemmeno neanche nella BBC. Even in England, quindi naturalmente per la BBC, it's getting harder and harder. E questo è una cosa che a lui di nuovo funziona come stimolo, quindi la cosa diventa difficile? Bene, allora io cercherò sempre di avere ancora più integrity in documentaries, anche se diventa tough, questo tough lo usano molto gli americani, no? C'è il famoso modo di dire when the going gets tough, the tough get going, cioè quando le cose diventano difficili vengono fuori i duri veri. Bene, è un po' quello che sta dicendo il nostro Richard Dale. E lui si rivolge ai documentaristi perché dice: a questo punto noi dobbiamo fare di più e fare meglio. Darci proprio una disciplina, discipline of the filmmakers, perché lui insiste su questo e ha ragione, no? Quante volte si pensa che documentario sinonimo noioso. Invece there is no reason why these films, documentary films, can't be entertaining, cioè non possono essere comunque divertenti, interessanti, cioè che di quelli che di cui sopra, cioè che non riesci a turn it off, lo vuoi vedere tutto. Ecco, what is very bad, cosa è davvero cattivo secondo lui? Che people don't bother, quindi non si curano, to bother, curarsi, to make them interesting. They don't bother to make them visually compelling. Cioè c'è tutta la parte visiva, naturalmente, è un vero e proprio film, quindi questo deve anche affascinare. È un'immagine, quindi deve essere, dal punto di vista dell'immagine, compelling, cioè che ci appiccica al video. Servono sempre di più skills, che è una parola che si comincia a usare molto anche in Italia. Perché è una di quelle parole inglesi corte, brevi, che vogliono dire tantissime cose, cioè sostanzialmente capacità, però appunto capacità di ogni genere, da capacità emotive alle capacità del documentarista, e ce n'è bisogno di more and more and more and more. We need more skills. Penso che tra l'altro sia molto vero, cioè abbiamo la famosa formazione continua, eccola qua. E ecco qua questo Richard Dale, documentarista inglese che abbiamo scoperto in questa puntata di English 24, che finisce qui. Io ringrazio Filippo Aureggi in regia, vi ricordo l'appuntamento in edicola con il nostro mensile English 24 da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata.